Pronto? Pronto? Oh, bello mio, dove sei? Io qua fuori sono. Oh, sono qua dentro, il locale, c'è un bordello. Arriminati, vieni. Ok, ok, sto entrando. Dig my party, le luci qui si fondono con me. Dig my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. Dig my party, le luci qui si fondono con me. Dig my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. Serata tranquilla, atmosfera rilassante. Scendiamo dall'auto di figlie, se ne vedono tante. La tipa di fuori, atteggiamento sbambito. Io con i miei amici, le forgiamo l'invito. Me la vivo tranquillo, Martini col ghiaccio. Una tipa mi guarda, mi sa che le piaccio. Mi avvicino a testa alta, aria molto sicura. Lei mi squadra dalla testa, ma si ferma alla cintura. Mi sa che qualcosa un po' fuori misura. Le dico diretto, sei pronta all'avventura. Lei è molto elegante, uno sguardo sensuale. Stasera spero me la dia se non è presa male. Continuo a osservarla in pista mentre balla. Mi faccio coraggio e le porgo la guancia. Mi accoglie ammiccante col suo seno provocante. È fatta stasera e tutto va alla grande. Dig my party, le luci qui si fondono con me. Dig my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. Dig my party, le luci qui si fondono con me. Dig my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. Yo. Sabato sera che resta, se il drink che pompa la testa, se ne scalati in ambiente festa. Elettro funky, sono suoni distanti, anche se stanno davanti. Il tetto prende fuoco perché siamo in tanti. Tre cap sudati e in eccessi disastri. La gente caccia mani per il DJ time. Chi si alza dal buff perché sente il sight. Tequila sarai, chi leva il control. Faccio clap con le mani come canti di Don Blow. Yeah, yeah, yo. Ciò parte in pista, muovo il culo, let's go. Le luci danno sito per il prossimo show, no. Dropper. This my party, le luci qui si fondono con me. This my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. This my party, le luci qui si fondono con me. This my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. 11:15, let's move. Ho già sentito bucciolo fuori col surf. Serata sbroccata e tu sai già di che parlo. Non devo pensarlo, facciamolo se dobbiamo farlo. Giro di giubiti per cominciare in bellezza. 10 secondi già sotto stato d'ebbrezza. Sguardi ammiccanti, il tuo è poesia. Le farfalle nello stomaco in lotta con la glicemia. Serata in spiaggia, ogni drink lo si assaggia. Cervello che viaggia, il pudore si oltraggia. Come se il domani fosse lontano anni luce. Forse un cazzo tanto la follia ci conduce. Esco tramortito, ne prendo una l'accendo. Mi segui presa bene e sorridendo. Mi guardi infoiata, vado sfiorando l'addome. Mentre penso che domani non ricorderò il tuo nome. Dig my party, le luci qui si fondono con me. Dig my party, il fuoco brucia dentro e sai perché. Dig my party, le luci qui si fondono con me. Dig my party, il fuoco brucia dentro e sai perché.